America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Sligo in Irlanda del Nord, dove si tiene il G8 britannico. Ho con me Maurizio Molinari, collega, corrispondente della stampa degli Stati Uniti, inviato qui in Irlanda del Nord a questo G8. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Mario. Beh, intanto devo dire, questa mattina al porto di Belfast, grandi emozioni, Barack Obama che ha parlato al popolo irlandese. Sì, nella città simbolo della ferita superata, le crisi etniche, le guerre civili, questo è il posto al quale Obama può dire: seguite il modello irlandese, è possibile superare le crisi più difficili. Insomma, Maurizio, ci fu a un certo momento una proposta americana che sembrava essere molto ragionevole, la cosiddetta Yemeninsky Solution, una soluzione che proponeva l'approccio che gli Stati Uniti e la comunità internazionale avevano seguito per lo Yemen. Obama aveva da sempre rassicurato Vladimir Putin sul fatto che la base navale russa in Siria sarebbe stata mantenuta, autorizzata, e questa proposta sembrava essere ragionevole dal punto di vista del compromesso, perché prevedeva le dimissioni di Assad, prevedeva la nomina a un nuovo capo del governo, di un uomo dell'apparato del governo Assad, quindi un uomo che avrebbe, o qualcuno che avrebbe rappresentato la continuità e l'avvicinamento delle forze dei ribelli, per poi preparare nel giro di un paio d'anni delle elezioni. La Russia ha respinto questa proposta. Secondo te potrebbe essere una via percorribile? Ma la Russia si dice disposta in questa fase a portare al tavolo dei negoziati dei rappresentanti del regime di Assad, chiedendo però agli americani di portare allo stesso tavolo una rappresentanza credibile dei ribelli. In questa fase, dopo la caduta di Qusayr, sono gli americani ad essere in difficoltà, perché i ribelli cercano un riscatto militare e non sono più disposti facilmente a sedersi con i rappresentanti di Assad. Però dico, questi ribelli si trovano a loro volta in difficoltà, perché l'alleanza fra Hezbollah, espressione iraniana, una macchina da guerra violenta, dura, attrezzata con le forze regolari siriane, insomma, ha messo in difficoltà i ribelli. Qualcuno la settimana scorsa temeva che potesse esserci addirittura una sconfitta definitiva, e poi un'uscita di scena di questi ribelli. Insomma, non credo che abbiano molte carte da giocare o da rivendicare, al di là anche di questa soluzione politica a cui tu accennavi. Assolutamente, e non solo, ma un altro elemento di indebolimento dei ribelli viene da quanto sta maturando ai confini fra l'Iraq e la Siria. Dalla parte siriana del confine è la zona abitata dai curdi. I curdi, fino alla caduta di Qusayr, si erano schierati a favore dei ribelli. Dopo la caduta di Qusayr, alcune fazioni curde hanno iniziato a dare battaglia contro i gruppi islamici sunniti, aiutando di fatto le forze del regime. Insomma, c'è un riassetto in corso sul terreno militare che non favorisce i ribelli. Ecco Maurizio, vedremo un po' l'alchimia tra Vladimir Putin e Obama, non si sono mai incontrati da presidenti. Che pronostico fai? Ma io credo che sarà un incontro molto delicato e difficile. Putin, prima promettendo gli S-300 ad Assad, sfidando i veti degli Stati Uniti, e poi offrendo asilo politico a Edward Snowden, la gola profonda delle NSA, nel giro di qualche settimana ha lanciato due siluri contro l'amministrazione Obama. Vedremo come il presidente reagirà. Ecco, appunto, altri due argomenti molto rapidamente. Il primo, la questione tutela dei diritti civili e la vicenda Snowden. Se ne parlerà questo G8, secondo te si arriverà a qualche posizione comune multilaterale? Obama ne aveva parlato con la sua controparte cinese. Se ne parlerà, perché l'interesse degli americani e di arrivare ad un accordo fra le maggiori potenze sui metodi di comportamento, questa è la formula, nello spazio cibernetico. Ecco, terzo argomento centrale, in realtà non è qui in Irlanda, ma è a Washington, la Federal Reserve. Insomma, l'economia sembra passare qualche momento di incertezza, soprattutto dal punto di vista dei mercati finanziari. Tu credi che saranno offuscati gli otto grandi da quel che succederà a Washington, alla Federal Reserve? Ma io credo che il Presidente arriva puntando a un accordo sulla crescita. Noi sappiamo che lui nei summit passati ha sempre usato la formula crescita bilanciata. Adesso però l'accento vuole essere sulla crescita. A tal fine la formula del negoziato con l'Unione Europea per la promozione di un libero mercato di beni e investimenti è fondamentale. L'interrogativo però è se l'Unione Europea riuscirà a essere unita su questo negoziato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, un G8 che cerca di porre fine a guerre civili, a conflitti. L'Irlanda è un esempio, vi propongo una grandissima canzone irlandese ispirata proprio alla libertà, nell'interpretazione di Harry Belafonte, il grande cantante americano-giamaicano Old Danny Boy. Old Danny Boy, ah Danny Boy, I love you so. Da Sligo, Irlanda del Nord, al G8 britannico è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.